Buonasera a tutti e per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso sulle onde di Radio Alma, benvenuti alla trasmissione I colori dell'anima. Allora, i colori dell'anima che questa sera abbiamo introdotto con un brano che si chiama La valigia. Perché la valigia? Perché questa sera affronteremo il tema degli italiani che hanno lasciato l'Italia, quindi degli emigrati. Parleremo per trattare questo argomento, prenderemo spunto da un testo che è stato pubblicato qualche mese fa, che si chiama Il rapporto italiani nel mondo 2011. Ma con alcuni, diciamo, dati, alcune considerazioni su questi italiani che sono andati nel mondo, vi parleremo anche di alcune attività che sono previste qui a Bruxelles nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Allora, per parlare di questi argomenti, ci sono stasera qui in studio Domenico Locatelli. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli radioascoltatori. E poi abbiamo Federica. Buonasera Salve a tutti. Federica. Allora, Federica parlerà di in particolare di un incontro che ci sarà fra pochissimi giorni. Magari lo accenniamo subito e poi ritorneremo anche ad approfondirlo un po' di più. Di cosa si tratta, Federica? Allora, si tratta di una serata organizzata dal CASI UO, il Centro d'Azione Sociale Italiano, e, sul tema della giornata della memoria, quindi il 27 gennaio, e, prevede la proiezione di un film italiano, dei Fratelli Taviani sulla Resistenza e un concerto di un gruppo folk italiano che viene da Pavia e anche l'intervento di Anne Morelli, che è una docente di storia dell'ULB che parlerà della Resistenza in Belgio. Allora, Domenico, quanti italiani sono nel mondo? Lo sappiamo? Eh beh sì, lo sappiamo, anche se è sempre una cifra per difetto, comunque più di 4 milioni e 180 mila sono cittadini italiani, ma è una presenza in Italia che giustamente si lega molto fortemente alla memoria. Quindi gli oriundi italiani si parla di tra i 60 e 80 milioni, ma non è per fare una grandezza, per dire noi siamo tanti, siamo belli, siamo forti, per dire che la realtà della storia che viviamo quest'oggi, attualmente, non può dimenticare ciò che c'è stato prima. Se si riguarda una giornata della memoria è perché qualcuno ci ha rimesso anche la vita per assicurare la libertà nel poter esercitare i propri diritti di cittadini democratici che si scelgono lo stile e il modo di vivere in questa società. Se qualcuno ha lasciato l'Italia è perché c'era in quel periodo anche un momento, una situazione di dittatura. E se non si potevano esprimere, dovevano essere esiliati e andavano in esilio. Come oggi ci sono migliaia, milioni di persone che fuggono da sistemi dittatoriali, da guerre feroci e per salvare quello che è più prezioso, la propria vita, la propria famiglia, una dignità, una capacità di esprimersi, sono costretti ad affrontare il Mediterraneo oppure una fuga rocambolesca dove violenze, soprusi non mancano, per poter darsi un attimino una realtà di vita decente. Questi italiani nel mondo fanno parte di questa storia. Guai a noi se li dimentichiamo. Dimentichiamo perché facciamo parte di questa tradizione di 150 anni, e il rapporto ne parlerà anche di questo, e vivono proprio dicendo, ecco, abbiamo fatto questa esperienza, siamo anche in grado, se lo vogliamo, di avere una politica di accoglienza attenta al diverso, all'immigrato che arriva in Italia, cosa che non è sempre scontata. E a proposito di immigrati, ci ricolleghiamo diciamo, all'ambito di Federica, perché il CASI UO, dove tu lavori in questo momento, è una struttura che è aperta agli immigrati. Ecco, magari se ci puoi spiegare un pochino meglio che cosa fa il CASI UO, che cosa può offrire agli italiani, ma anche agli altri immigrati che possono essere di altre nazionalità. Sì, infatti, beh, il CASI è nato in un'epoca un po' particolare, quindi si rivolgeva soprattutto a immigrati di origine italiana che arrivavano e non riuscivano per diversi motivi a integrarsi e in qualche modo erano un po' emarginati. E costruito tutta una serie di attività che portavano queste persone a partecipare attivamente alla vita sociale, ad esprimersi, ad esprimere la loro condizione attraverso diverse forme, anche artistiche, come il teatro e il canto. Con il tempo il CASI ha mantenuto questi principi, ovviamente, ma si è aperto anche ad altri, a immigrati di diverse origini che vivono la stessa situazione, quindi che non solo non hanno, vengono dal milieu populaire, quindi non hanno i mezzi per accedere a certi servizi, se vogliamo chiamarli così, come l'assistenza scolastica, che in Belgio è un tema abbastanza caldo, perché tra l'altro uno dei temi che ci sta molto a cuore è quello dell'échec scolaire, che è un tema molto, molto presente in Belgio, ma anche altre forme di attività come le formazioni per gli adulti, attività culturali, che permettono a persone che, per cui appunto non deve essere assolutamente un lusso avere queste possibilità, appunto le permette loro di partecipare attivamente. E quindi oltre all'école de devoir facciamo anche delle attività più culturali con tutte le fasce d'età, tra i bambini e gli anziani, e adesso attività culturali come il cineclub o stage per i ragazzi, in modo che si aprano un po' di più e che abbiano accesso a conoscere anche la cultura. Quest'anno facciamo uno stage sul Belgio, quindi questi ragazzi che magari non hanno i mezzi per andare a scoprire questo paese lo possono fare con noi. E poi anche con gli anziani facciamo atelier di informatica, viaggi, fanno dei viaggi, delle escursioni, e sono molto attivi, tra l'altro sono il pubblico più attivo del CASI. E quindi io direi che in poche parole il CASI vuole permettere a queste persone di accedere a una vita più attiva in tutti i sensi. E a proposito di anziani, come forse sai, questo è l'anno dedicato all'invecchiamento attivo, ecco, e alla solidarietà tra generazioni, quindi insomma mi sembra che il CASI poi abbraccia proprio tutte queste attività, come ci hai detto un po' tu, cioè dai bambini più piccoli agli anziani. Sì. Allora, io propongo una piccola pausa musicale. Rimaniamo con le canzoni del CASI UO, proprio diciamo in onore di Federica. Grazie. No, ma anche perché mi sembra un mi sembrano delle canzoni che non solo sono state prodotte al CASI UO negli anni scorsi, ma che appunto sono molto inenti al tema della immigrazione. Quindi il brano che ascolterete adesso si chiama Il fiore della strada. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9 con I colori dell'anima, che resteranno con voi fino alle 22. A fra poco. Allora, e questo era il brano intitolato Il fiore della strada, naturalmente su Radio Alma 101.9. Mentre siete in compagnia di Rosanna, di Domenico Locatelli e di Federica come si chiama? Palmieri. Federica Palmieri. Allora, sto parlando di italiani nel mondo, di immigrati, abbiamo anche detto poco fa che questo anno 2012 è dedicato all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra generazioni. E prendendo spunto da questo documento, che è il rapporto degli italiani nel mondo 2011 della Fondazione Migrantes, leggo tra l'altro che vi sono dei paesi in cui è particolarmente alto il numero di presenze anziane, di persone anziane, e leggo appunto che tra questi paesi il Canada è il paese più rappresentato, dove cioè ci sono più anziani italiani, seguito dalla Croazia, Argentina, Stati Uniti, Francia, Australia, Brasile, Uruguay, Turchia e Lussemburgo e Venezuela. Probabilmente quello che mi colpisce è che la Croazia sia il paese dove ci sono molti anziani, però magari chi è del nord Italia qui può spiegare questa motivazione, che forse gli italiani vanno da pensionati, vanno in Croazia, non capisco, o forse sono i italiani, insomma, di prima che l'Italia perdesse l'Istria probabilmente. Comunque, penso che hai ragione, sono tutte e due le cose, soprattutto una vecchia migrazione che sconfinava, perché i confini erano molto sottili all'epoca e giravano, come ad esempio in Romania ci sono tantissimi italiani anzianissimi, perché proprio all'inizio del Novecento sono andati a fare coloro che lavoravano in legno, quindi da abbattere le foreste e costruire i manufatti in legno per le case dei signori, e sono rimasti là. Quindi si spostavano soprattutto dal Friuli, si spostavano dal Veneto, e hanno trovato in questo modo la faccenda interessante, hanno formato famiglia, si sono installati, hanno vissuto le vicende del paese dove sono trovati. Lo stesso per l'Argentina, per il Canada, sono situazioni dove gli insediamenti, fatti proprio a grappoli duri, come succede in migrazione, dove il cugino tira l'altro cugino, i familiari tirano i familiari, e si trovano proprio il paese trasportato dalle Puglie o dalla Sicilia o dal nord o dal Piemonte, e si ritrova installato, non so, nella Patagonia oppure vicino a Buenos Aires o a Rosario, e poi lì impiantano tutto il loro sapere, quindi vignaioli, quindi tutte le coltivatori e tutta la maestria che hanno dentro di loro. Così vale per il Canada, che era lontano, bisognava passare, mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare, insomma, e c'era il pericolo proprio di affondare, e sono colonie che si sono stabilizzate. Lo stesso per l'Australia, ha avuto vicende migratorie molto diverse, soprattutto nel 70-75 c'è stato un grande ritorno in Italia, poi si è ripartito di nuovo, e oggi i giovani in Australia vedono proprio il sogno, per cui nel 2001-2010 sono stati 50.000 i giovani italiani che sono partiti per l'Australia, e 60.000 sono confermati per il 2011. Modo da dire che la speranza di questi giovani in Italia è pochina, e di fronte a questo si deve partire, perché il lavoro non c'è, la prospettiva non c'è, ma soprattutto si va per realizzare un sogno cui si è studiato, mettere in valore delle competenze che si hanno, e un giovane desidera metterle alle prove. Una volta si partiva perché c'era la fame, quindi molto non istruiti. Oggi i giovani partono perché vogliono realizzare ciò per cui hanno studiato. E infatti sempre sono delle cose che ho annotato anch'io in questo rapporto, dove si parla di casi di singole persone. Per esempio si dice, in Gran Bretagna c'è una ricercatrice, una professionista, Chiara Petrone, che da 3 anni dirige il laboratorio di microsonda elettronica a Cambridge, dopo aver provato a restare in Italia facendo 13 concorsi in 10 anni. Si tratta di una sorta di psicologa dei vulcani, in quanto non prevede le eruzioni, ma studia i vulcani nella loro storia e nelle loro caratteristiche, ricostruendone la biografia e il carattere. Diciamo, questo rapporto dice, paradossale pensare che i suoi studi avvengono in un laboratorio di una nazione che non ha vulcani, e una terra a rischio sismico come l'Italia invece abbia lasciato andar via un talento che si è contraddistinto durante gli anni di dottorato che ha fatto in Giappone e negli Stati Uniti. Ma appunto ci sono tantissimi altri casi, cioè per esempio, ecco, si parla di un altro caso, Maurizio Porfiri, che ha 34 anni e assistant professor di ingegneria meccanica al Polytechnic Institute dell'Università di New York, e dove purtroppo sappiamo che un giovane di questa età se la sogna un posto di assistant, di professore, di assistente in Italia. Quindi bisogna dire che per le persone che hanno voglia di fare, per le persone che veramente ce l'hanno messa tutta, paesi come gli Stati Uniti e come il Regno Unito, che sono i due paesi, diciamo, che attirano di più i ricercatori, i talenti, effettivamente si aprono le porte, delle possibilità che purtroppo in Italia non possiamo offrire. Questo è molto triste se pensiamo a quanto l'Italia ha investito facendo studiare questi ragazzi, facendogli fare il dottorato, quindi sono tutti soldi che poi semplicemente vengono portati fuori. E questo altro che, non parliamo di fuga di cervelli, ma parliamo di fuga di soldi, perché sono soldi buttati via. Direi di sì, anche se il quadro si apre un po' a una situazione, diciamo, europea, dove è la situazione, il continente che ha assorbito in modo particolare il numero maggiore dei migranti italiani. E anche oggi, per quanto riguarda i giovani, molti si rifugiano proprio a Bruxelles, è un caso tipico, insomma. Oggi nel mio lavoro sono più sollecitato dai giovani che arrivano a Bruxelles che non da quelli che sono qui dagli anni 60, perché sono ormai inseriti, fanno parte un po' del tessuto sociale, sono un po' persi un po' dappertutto nella città. Il giovane italiano che viene, che lavora in inglese e il francese lo conosce appena, o comunque rischia sempre di trovarsi fra i soliti, fra il loro club, perché si trovano nelle istituzioni piuttosto che in altre realtà universitarie e rischiano di restare un po' legati fra di loro e non uscire verso il tessuto, anche se vivono negli appartamenti nei vari comuni di Bruxelles, sono quelli che comunque quando trovano una risposta alle loro esigenze di qualsiasi tipo, che sia italiana, respirano anche bene e sono disposti a... Sono eccellenze comunque, sono teste buone che è bello non lasciare così in sospeso, per dire faccio questo lavoro che dura 6 mesi, 3 anni e poi. E questo poi che diventa drammatico, perché ritornare in Italia non vedono prospettive, e devono decidersi a continuare a cercare delle soluzioni a livello europeo, non importa in quale nazione. Stiamo costruendo l'Europa con molta fatica e soprattutto con grande delusione, perché non c'è un progetto politico che unisca un po' le varie nazioni a avere un cammino unitario, condiviso, dove si affrontano i vari problemi di tipo culturale, di tipo economico, di tipo di gestione sociale e di aiuto a chi è povero, che sia comune. Quindi ognuno è ancora intento a guardare i propri interessi personali o di nazione e quindi si fida, non si fida degli altri, e questo non si costruisce un progetto unitario. Però è la bella sfida. Oggi i giovani si stanno muovendo tantissimo, sono milioni che si muovono, e soprattutto nella fascia più importante, che è quella dai 19 ai 25-30 anni, insomma. E però quello che più fa male, si vede, e il rapporto lo mette abbastanza in luce questo, sono giovani che sono né hanno un lavoro né hanno uno studio, sono alla ricerca perenne. Non so, Federica, tu come stai vivendo questa situazione? No, io positivamente, anche perché diciamo che per me venire qui è stata una scelta abbastanza... scelta che ho voluto fare, quindi non l'ho vissuta come un'esigenza, un'imposizione. Poi, insomma, ora sono contentissima della vita che faccio qui, del lavoro che ho qui, mi ritengo molto fortunata, devo dire, soprattutto quando sento le persone che conosco in Italia, vedo che, insomma, la situazione è quella che è, quindi io personalmente bene questo distacco, è stata una scelta mia. Però non è sempre così, cioè chi vorrebbe vivere in Italia, vorrebbe costruirsi una vita in Italia e non ce la fa. Quindi ecco, ci sono forse ora casi diversi di scelte o di esigenze, di spostarsi, di muoversi, di lasciare il proprio paese. Avete constatato come casi la possibilità di riuscita nella scuola dei figli degli italiani? Come sta andando? O sono altre generazioni nuove che hanno problemi di riuscita scolastica? No, diciamo che è un problema che affligge qualsiasi provenienza, qualsiasi origine, i belgi quanto le persone di origine diversa. È più un problema legato alla condizione sociale, nel senso che ci sono bambini che hanno difficoltà ma che hanno i mezzi per avere un sostegno in più, e ci sono bambini che questi mezzi non li hanno e che per diversi motivi non l'hanno neanche in casa, per esempio perché i genitori non hanno una certa educazione o perché non hanno i mezzi economici per aiutare i propri figli a superare delle difficoltà. Quindi è un po' più complesso come discorso, non è semplicemente legato all'origine o alla nazionalità o al fatto che in casa si parli una lingua e fuori un'altra, è più una questione legata alle possibilità e a quello che offre la scuola e a quello che non offre, che si deve compensare, e se non si hanno i mezzi per compensarlo, beh, si rimane. Noi cerchiamo di fare quello che possiamo, però devo ammettere che non è facile, che ci sono molti problemi. Certo, venerdì ci sarà una manifestazione alla Gare du Nord, proprio promossa anche da diverse associazioni, fra cui anche la Chiesa che vive in Bruxelles, proprio contro questa cacciata che hanno fatto qualche mese fa del Rom e di altro. E allora soprattutto Scarbecchia, che è proprio il comune in cui vive drammaticamente questa situazione, perché lì vive la Gare du Nord, lì ci sono un po' l'accumularsi di tanta gente senza brio o gente che ha problemi di alloggi decenti e soprattutto non riesce a gestire delle relazioni familiari o semplicemente delle relazioni che siano degne. È proprio vero, quando manca anche solo i bisogni primari, che sono quelli del cibo, del vestito, della casa, dell'alloggio, della cura sanitaria, diventa difficile riuscire a realizzare una dignità di vita che sia accettabile. Andremo a manifestare per tutta la giornata, perché si vuole reclamare politica che sia attento a queste persone, perché è scandaloso che ci siano tanti alloggi non occupati e tanta gente che è costretta ancora a dormire sotto i ponti. Insomma, vedo dei nuovi italiani, questi nuovi famosi che vengono dal Marocco, che sono cittadini italiani perché hanno vissuto qualche anno e ora arrivano a Bruxelles e bussano alla porta dei patronati, del consolato, delle associazioni, che stanno vivendo delle situazioni drammatiche. Drammatiche perché il permesso italiano lo riconoscono sì e no, perché comunque non possono entrare nei sussidi e nelle coperture assicurative sanitarie del Belgio e di Bruxelles, e hanno proprio una precarietà veramente paurosa, non umana. Allora, bene, io approfitterei per fare un'altra pausa musicale. Questa volta il brano che vi propongo è un brano di un altro italiano eccellente, Caruso, la canzone di Lucio Dalla, che sicuramente conoscerete, e proprio perché stiamo parlando di emigrazione mi sembrava una canzone attinente. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9 con I Colori dell'Anima, e come sapete, come ogni lunedì, resteremo con voi fino alle 22. A fra poco. E questo era Lucio Dalla con la canzone Caruso, mentre state ascoltando I Colori dell'Anima. Allora, non abbiamo ancora scelto un colore per la trasmissione di questa sera. Italiani nel mondo. Verde mi sembra un po' banale, il colore della speranza. Vogliamo trovare un altro colore? Beh, io penso, Rolando, che essendo il rapporto italiano dei 150 anni, lì è tricolore, facciamo tricolore, tre colori, assolutamente. Facciamo te tre. Proprio allora, perché un anno intero abbiamo parlato, facciamo di questo, abbiamo rovistato contro ogni aspettativa, perché certo, sembrava una pagliacciata, invece no, è risultato qualcosa di un senso di ricordo, di memoria e di riscrivere questo risorgimento, anche perché anche il Corpo dello Stato ci invita tantissimo a prendere un risorgimento umano prima di tutto, dove i valori della persona, della convivenza, della convivialità siano qualcosa di bello, cui apprezzare, che vengono prima del guadagno economico, che vengono prima della visibilità da far vedere in modo tronfio, perché ecco io sono più di te, ma che va proprio attraverso un riscoprire l'altro come il tuo amico, come colui con il quale puoi condividere un territorio e addirittura sposare un progetto e costruirlo insieme. Io sarei per i tre colori. Va non bene. So, Federica, cosa dici tu? Sono d'accordo. Siamo patrioti stasera, è bello. Allora, Federica, del CASI UO, che lo ricordiamo, vuol dire Centro d'Azione Sociale Italiano Università Operaia. Allora, tra le varie attività, abbiamo già accennato prima, c'è un incontro previsto a breve, il 27, ci puoi dire, ci puoi ripetere, magari anche dire qualche informazione un po' più dettagliata su questo evento? Sì, quindi vabbè, innanzitutto è un evento che si svolge nell'ambito di questo nuovo progetto di Cineclub che abbiamo lanciato, perché durante la serata ci sarà anche la proiezione di un film. In programma ci sono tre aspetti, cioè questo film dei fratelli Taviani, Le notte di San Lorenzo, un film degli anni Ottanta che tra l'altro ha avuto anche il premio della giuria a Cannes, quindi insomma un film di un certo livello, che parla della resistenza in Italia, in particolare in Toscana. Ci sarà anche l'intervento di Anne Morelli, una docente di storia dell'ULB molto conosciuta, che ha scritto anche un libro sulla presenza degli italiani in Belgio durante la guerra, perché non si sa perché questa cosa, però prima dell'arrivo in massa degli italiani dopo la seconda guerra mondiale già c'erano degli italiani che erano partiti perché erano contro il regime, quindi un po' esiliati, e hanno avuto una presenza anche importante nella resistenza belga. E poi a chiudere la serata ci sarà un concerto di questo gruppo folk di Pavia che si chiama La Corte dei Miracoli, che hanno gentilmente accettato il nostro invito per chiudere in musica l'evento, e che faranno delle canzoni legate anche alla resistenza, ai partigiani, ma non solo. E quindi insomma per noi è un evento importante non solo perché è una giornata importante, perché la memoria è uno delle punti chiave del CASI, a cui teniamo molto, ma anche perché per noi la resistenza non è solamente, cioè andrebbe più universalizzata, cioè più intesa anche nel senso che bisogna fare resistenza contro l'esclusione, contro l'oppressione di qualsiasi tipo in realtà, quindi è molto attuale in realtà, secondo i tempi anche attuali. E quindi questa serata si svolgerà allo Cinema, che è una sala, una bellissima sala Anderlecht, vicino a Saint-Guidon, inizierà alle 19, e per chi fosse interessato si può informare sulla nostra pagina Facebook, può anche via internet riservare il posto, e insomma trova tutti i dettagli e le informazioni sulla nostra pagina Facebook. Quindi tutte le attività si svolgono in questa sala, dalla presentazione di Anne Morelli al concerto, tutte nello stesso posto. Quindi dalle 19 finirà, diciamo, tardi probabilmente. Ma, sì, penso intorno alle 11. Uh-huh. Tra l'altro ci sarà una degustazione di arancini siciliani. Ecco, infatti ci mancava questo aspetto culinario, perché quello come c'è sempre, infatti. A rimanere tutte queste ore senza mangiare. Esatto. Va bene. Quindi, allora, insomma, speriamo che... Il 27 gennaio 2012 alle ore 19 presso la sala... Cinema. Sì. A Anderlecht. Ci si può iscrivere andando sul sito Facebook del CASI UO, sì. Giusto? Eventualmente si può anche telefonare a certo, voi? Certo, si può, in realtà c'è una prevendita, quindi che si può fare sia tramite un versamento, uh-huh, sia venendo da noi al CASI. Quindi, ci puoi dare anche l'indirizzo? Sì, è la Rue Saint-Guidon, uh-huh, numero 94, quindi è vicino alla metro. Ah, vicino. Altrimenti si può venire direttamente la sera dell'evento, però a quel punto si pagano 2 ore in più senza la prevendita, quindi a quel punto insomma. Va bene, d'accordo. Allora, ma c'è anche un altro evento a proposito degli italiani nel mondo, giusto? Esattamente, allora il sesto rapporto italiani nel mondo della Fondazione Migrantes sarà presentato qui a Bruxelles il giovedì 22 di febbraio, giovedì 2 febbraio alle 18, sarà presentato presso la sala della delegazione presso l'Unione Europea della Regione Lombardia, la via la Place du Champ de Mars numero 2. È un'associazione che ha promosso e organizza la parte logistica, che è l'associazione Il Circolo di Bruxelles dell'ente bergamaschi nel mondo, che ha già fatto questo servizio di presentazione del rapporto italiani l'anno scorso, nel 2011, e quest'anno si ripropone come associazione motivata a far conoscere questa opera che ha, porta 512 pagine del grande libro, il sesto che esce, dove il tema fondamentale è il collegamento ai 150 anni dall'unità d'Italia, ai 150 anni di emigrazione italiana, è ricca di tabelle comparative e di statistiche riferite alle singole regioni, dove mostrano questo quadro e questa realtà interessantissima degli italiani all'estero. Non si fermerà a Bruxelles il rapporto, anche perché da Roma, per il comitato scientifico che ha curato, un comitato fatto da docenti universitari, da sociologi, molta gente vive all'estero, non in Italia, e scrive diversi capitoli, sono 52 capitoli, e proprio vivendo in prima persona questa loro presenza di studio e di riflessione, vivendo fuori dall'Italia. Sarà presentato anche il venerdì 3 nel Limburgo a Genk, sostenuto un po' dall'associazione ACLI e da altri, e poi dal Comites e dalla missione italiana di Charleroi, e sarà il sabato 4 di febbraio. Quindi tre serate si vuole presentare e portarlo alla conoscenza anche delle associazioni degli italiani che vivono in Belgio. I destinatari del rapporto sono innanzitutto gli studiosi, sono le persone universitarie, sono i mezzi di comunicazione e di informazione, sono i giornalisti, sono le associazioni e gli stessi istituzioni pubbliche che si interessano della migrazione e della convivialità e convivenza delle varie comunità di origine straniera. Allora l'appuntamento è per giovedì 2 febbraio alle ore 18 alla sala della delegazione della Regione Lombardia in Place Champ-de-Mars. E allora quindi ricordate queste date: 27 gennaio, Casi UO alla sala Cinema di Anderlecht, sì. E il 2 febbraio al Place du Champ-de-Mars 2 presso la Regione Lombardia, il 2 febbraio quindi alle ore dalle 18 alle 20. Allora proponiamo ancora un brano musicale, spero di riuscire a farlo partire, si chiama Non so più cosa fare di Adriano Celentano, se capisco, non l'ho mai ascoltato, quindi per me è un esperimento proprio. Vale la pena, medita le parole che sono sagge. Speriamo che riesco a farlo partire e ci ritroviamo fra pochissimi minuti, mi raccomando rimanete sintonizzati per l'ultima parte dei colori dell'anima. Noi invece siamo veramente alla fine della trasmissione di oggi e vi ricordo che nella trasmissione di oggi abbiamo parlato, abbiamo accennato ad alcuni stralci del rapporto italiani nel mondo e abbiamo accennato alle attività del Casi UO, ma in particolare adesso Federica ci ricorderà qual è l'attività prevista nei prossimi giorni. Sì, quindi una serata sul tema della giornata della memoria con un bellissimo film italiano che vale la pena di vedere, dei Fratelli Taviani, un concerto di un gruppo folk molto allegro e molto, insomma, che vi consigliamo, e anche l'intervento di una docente di storia dell'ULB Anne Morelli, sicuramente interessante per tutti, italiani e non, ecco. Allo cinema, Anderlecht. Benissimo, alle 19, quindi sì. Venerdì 27 gennaio. E per quanto riguarda invece gli italiani nel mondo, vogliamo ripetere... Ricordiamo l'appuntamento alla sede della delegazione Lombardia a Champ-de-Mars, presso l'Unione Europea, il 2 febbraio, giovedì 2 febbraio dalle 18 alle 20 sarà presentato il rapporto italiani nel mondo. Per chi volesse una copia di questo può andare sul sito www.pastoralitalianabruxelles.com e lì troverà tutti i riferimenti proprio per averne una copia. Vale la pena averlo perché è interessantissimo anche per le tematiche che vengono espresse e approfondite, anche solo per sapere quanti italiani della vostra regione, della vostra provincia sono all'estero e questi 4 milioni e 200 mila cittadini italiani li trovate dentro e voi ne fate parte. Non solo questo, poi altre attività promosse per le comunità italiane che vivono a Bruxelles sono sempre visibili sul sito e potete partecipare, siete benvenuti sempre. Benissimo, comunque probabilmente nel corso di quest'anno 2012 parleremo ancora di questa tematica, ovviamente che ci è molto cara, ci è molto vicina, e per quanto riguarda invece i colori dell'anima torneranno di nuovo con voi lunedì sempre dalle 21 alle 22, quindi mi raccomando rimanete con noi. Lunedì 30 gennaio faremo un po' il punto della situazione facendo un po' un riepilogo delle trasmissioni che abbiamo mandato in onda nel 2011 e quali sono anche le prospettive per il 2012, quindi rimanete con noi, ci troviamo lunedì prossimo. Grazie a Domenico Locatelli, alla prossima, arrivederci e a buon ritrovo. Grazie, grazie a Federica Palmieri. Grazie a te, grazie dell'invito. Grazie, e naturalmente quindi ricordatevi di questo evento del Casi UO il 27 alla sala Cinema. Cinema il 27, quindi alle ore 19. Buonasera a tutti. Arrivederci, arrivederci. A risentirci.